Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Assedio al Senato, sette cortee a Roma tra studenti superiori e universitari, tensioni con la polizia. Borse in altalena con i bancari, ma fa ben sperare il rally asiatico, scende ancora l'Euribor. Già pronti 800 emendamenti alla finanziaria, opposizione e maggioranza premono per sostegni ai salari. Ergastolo la richiesta del pubblico ministero per il rumeno che aggredì e uccise Giovanna Reggiani a Tor di Quinto. Sulle regole serve un ampio consenso, Napolitano fa appello ad un accordo bipartisan per la legge elettorale per le europee. Anche il mercato dell'arte in crisi, Sotheby's ritira un Arlecchino di Picasso, vale 30 milioni di euro, ma non ci sono compratori. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Domani dunque il giorno del voto al Senato per quanto riguarda l'approvazione del decreto Gelmini. Oggi le manifestazioni che si moltiplicano, università e studenti sul piede di guerra. Gli studenti delle superiori sono tornati sotto le finestre del Senato e ci sono stati attimi di tensione questa mattina. Non l'unico corteo, per la verità, nella capitale, dove se ne stanno snodando ben sette. Cosa è accaduto e cosa sta succedendo? Andiamo al Senato da Francesca Malaguti. Francesca. Buongiorno, continua il sit-in qui davanti al Senato, lo sentite bene, il leitmotiv della protesta di oggi è la apoliticità, non siamo né rossi né neri, continuano a urlare gli studenti e in effetti le modalità di questa manifestazione sono insolite, musica da discoteca, metal, cori da stadio al posto delle canzoni politiche, sono sette, lo avete detto, i cortei che stanno sfilando a Roma oggi, nel pomeriggio anche universitari e Cobas arriveranno in piazza Navona, non sono mancati momenti di tensione questa mattina, uno studente è stato identificato dopo aver sputato addosso a un poliziotto che gli stava impedendo di scavalcare le transenne e ora una delegazione di cinque studenti è entrata al Senato. Intanto il ministro Maria Stella Gelmini oggi incontrerà i rappresentanti dei genitori. Gli studenti minacciano di rimanere davanti al Senato anche tutta la notte in polemica attesa verso il voto al decreto sulla scuola che ci sarà domani. È tutto, a voi la linea. Grazie a Francesca Malaguti. Sentivamo in sottofondo la protesta. La protesta che riguarda anche il mondo delle università, dove però oggi la pioggia a Roma, per esempio, ha vanificato una delle iniziative che erano in programma, la manifestazione al Colosseo. Però in molte città italiane le università restano occupate e con gli studenti si schierano anche alcuni rettori. Sono pronto a dimettermi, dice Francesco Profumo, rettore del Politecnico di Torino, e con me altri rettori delle università italiane, ha specificato Profumo, se il governo non cambierà strada, ritirando tagli insostenibili e aprendo la via ad una seria riforma delle università. E poi c'è il capitolo scuola elementare, la più investita in verità dalla riforma che si voterà domani. Sentivamo prima da Francesca Malaguti, oggi il ministro Gelmini riceverà in questo caso i rappresentanti dei genitori, noi però questa riforma vogliamo continuare a raccontarvela. Terza puntata del nostro viaggio. Oggi i bambini delle scuole elementari hanno a disposizione due maestri, uno per l'area logico-matematica e uno per quella linguistico-espressiva, oltre all'insegnante d'inglese e a quello di religione. Con il ritorno maestro unico, previsto dall'articolo 4 del decreto 137, queste competenze faranno capo ad un'unica figura, fatta eccezione per la religione e in alcuni casi per la lingua straniera. Il timore è che docenti specializzati da anni in un'area specifica si trovino in seria difficoltà di insegnare anche altre discipline. Un timore che per Fabio Rampelli, deputato per il Popolo delle Libertà e membro della Commissione Cultura della Camera, non ha motivo di esistere. Il cosiddetto maestro unico, maestro prevalente, viene attinto da un'unica graduatoria, diversamente dalle scuole medie superiori. Il maestro unico fa un concorso unico e quindi non ha una sua specializzazione. Dunque, se si trovasse, come accadrà, a insegnare invece che italiano un'altra materia, comunque lui ha una preparazione generale che gli consente, anzi addirittura c'è una norma che prevede la turnazione, cioè che un maestro non insegni sempre la stessa materia. Non è dello stesso parere Michela Bianchi, che da anni insegna in una scuola elementare di Milano. Io insegno matematica, scienze e geografia, è chiaro che dopo anni e anni che non insegno italiano mi troverei molto in difficoltà, dovrei ripartire da zero. La legge però prevede una rotazione nel tempo, che gli insegnanti cioè passino da un ambito all'altro. Nelle scuole non avviene questo, in genere anzi riconferma l'ambito indicato, cioè dall'insegnante, proprio perché c'è un riconoscimento delle competenze che ognuno di noi si è costruito nel tempo. Su questa tendenza tendenza dei dirigenti scolastici a non far ruotare gli insegnanti, abbiamo chiesto conferma a Eugenio Scardaccione, maestro per lunghi anni e adesso dirigente scolastico della scuola statale Massari Galilei di Bari. Chi dice che ruotano dice bugie, perché di solito si tende a confermare la professionalizzazione. Io mi ricordo quando ho fatto il maestro, io facevo l'area umanistica, io sinceramente una quarta, una quinta elementare matematica non la saprei insegnare. Roberta Pellegatta, GR24 e Sole 24 Ore. Fin qua il mondo della scuola, adesso però rivolgiamoci a vedere come stanno andando le cose sui mercati finanziari. Oggi un po' di spunto l'hanno dato le borse asiatiche. Deborah Rosciani, come sta andando in Europa? Allora, in Europa sta andando bene, però devo dire che la situazione è piuttosto differenziata. Andiamo dal balzo di Francoforte del 9% grazie alla corsa che continua anche oggi dei titoli Volkswagen, che ieri, pensate, hanno chiuso le contrattazioni con un più 146% e anche oggi guadagnano il 50%, al più 2,8% di Parigi, più 4,65% di Londra. In assoluto il fanalino di coda oggi dei rimbalzi è Piazza Affari, che guadagna appena lo 0,67% sull'S&P MIB e l'1,33% sul MIBTEL. Cosa accade a Milano? Accade che le vendite imperversano letteralmente sul comparto bancario e anche oggi trascinano pesantemente Unicredito meno 6,74 e Intesa San Paolo meno 4,46, titoli che hanno avuto anche la sospensione per ribasso questa mattina, adesso sono regolarmente trattati ma sono al centro di numerose vendite. Peraltro stamattina c'è stato anche un giallo, c'è stata la sospensione sempre per problemi di carattere tecnico della diffusione dell'indice S&P MIB, quindi non avevamo regolarmente il flusso di dati, ma in ogni caso adesso Borsa Italiana ha comunicato che è tutto a posto e l'indice è in rialzo dello 0,7%, per cui giornata di rimbalzi che speriamo si consolidino fra un'ora e mezzo quando apriranno le contrattazioni a Wall Street. Grazie e naturalmente continueremo a raccontarvelo. E la fiducia però intanto non sembra davvero tornare, lo dice un indice molto particolare. In ottobre la crescita di fondo dell'area dell'euro stimata dall'indicatore Eurocoin si è annullata dallo 0,04 di settembre, il valore più basso mai raggiunto dalla prima pubblicazione dell'indicatore. Indicatore sviluppato dalla Banca d'Italia che dà una stima sintetica di quello che è il quadro congiunturale nell'area dell'euro. E il calo, spiegano, è principalmente dovuto al crescente pessimismo delle imprese registrato dai sondaggi congiunturali. E vediamo come si sta muovendo su questo il governo, che ha riunito più volte in queste settimane il Comitato per la Stabilità Finanziaria. Oggi nuovo incontro convocato dal ministro Tremonti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Al centro dell'incontro tra il ministro dell'economia Tremonti, il governatore della Banca d'Italia Draghi e tra gli altri il presidente della Consob Cardia, vi è ancora una volta l'analisi dell'esposizione di banche, imprese e assicurazioni nei confronti della crisi dei mercati, con particolare riferimento agli strumenti derivati. Si attendono inoltre i regolamenti attuativi dei due decreti legge varati per soccorrere se necessario le aziende in crisi di liquidità. Secondo fonti del Ministero dell'Economia, una particolare attenzione sarebbe posta poi sulla necessità di interventi a sostegno delle banche italiane, che gli investitori sembrano penalizzare a causa della disparità di trattamento con le concorrenti francesi, inglesi e tedesche, i cui rispettivi governi hanno già messo in campo importanti interventi di sostegno. A causa del prolungarsi di questo appuntamento, Tremonti non sarà come da calendario alle 13.30 alla Camera per un'audizione sulla finanziaria. C'è molto fermento intanto intorno alla manovra economica. Il governo promette più fondi per la cassa integrazione straordinaria, presenterà per questo un nuovo emendamento al Senato. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Crisi a parte, oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad invocare accordi bipartisan su un altro tema, la legge elettorale per le europee. Quando si tratta di modificare regole tra le più importanti della competizione democratica, quali sono quelle dei sistemi elettorali, ha scritto oggi in un messaggio Giorgio Napolitano, è da ricercarsi un ampio consenso in Parlamento. Da Napolitano anche l'invito a non comprimere il pluralismo politico. E la crisi pesa non solo sui mercati finanziari, abbiamo detto più volte che sono molti i settori coinvolti. Sentite allora che cosa è accaduto nel mercato dell'arte, che pure fino a pochi giorni fa sembrava invece indenne. In tempo di crisi anche i ricchi piangono, e lo si nota dai dettagli, da quei piccoli particolari che valgono più di mille analisi. Uno di questi racconta che la casa d'asta Sotheby's ha ritirato da una prestigiosa asta di quadri impressionisti l'opera principale, un Arlecchino di Picasso del 1909 valutato oltre 30 milioni di dollari. La notizia viene dal New York Times, il quale spiega che da settimane correva voce che l'importante quadro sarebbe stato ritirato dall'asta del prossimo 3 novembre per timore che il mercato dell'arte seguisse la china discendente dei mercati finanziari. Il quadro, un arlecchino con il mento poggiato su una mano, una delle prime opere della fase cubista di Picasso, apparteneva al pittore e scultore Enrico Donati, un americano di origine italiana morto lo scorso aprile a 99 anni. Donati lo aveva comprato alla fine degli anni 40 per circa $12,000. Povero arlecchino, nessuno lo vuole. Peccato, perché di lazzi e burle, per tirarci sul morale, forse ne abbiamo più bisogno del pane. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi voltiamo invece pagina con la cronaca. Ricorderete l'omicidio a Roma di Giovanna Reggiani, aggredita a Tor di Quinto. Ebbene, oggi è arrivata la richiesta di pena per il suo aggressore. Domani la sentenza sull'omicidio di Giovanna Reggiani. Oggi il pubblico ministero Maria Bice Barborini ha chiesto per Romulus Nicolae Mailat l'ergastolo. Mailat deve rispondere di omicidio volontario, rapina e violenza sessuale. Nel corso della requisitoria, durata circa un'ora e mezza, ripercorsi i fatti con la citazione dei testimoni numerosi che raccontarono l'aggressione dettagliatamente. L'accusa ritiene che Mailat abbia agito da solo. Dopo essersi appostato, avrebbe colpito ripetutamente e violentemente la donna, praticando sevizie e agendo con particolare crudeltà. Anna Rita D'Ambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. Notizia dell'ultima ora, sempre per quanto riguarda la cronaca: un agguato nel napoletano, ci sono due persone che sono morte in un agguato che è avvenuto a Castellammare di Stabia. Per ora però non ci sono altri particolari. I mille volti della festa del cinema di Roma ve li stiamo raccontando in questi giorni, e la notizia di oggi è che già si intravede in qualche modo una nuova polemica. Sì, perché partiamo dalla patria di Benito Mussolini, che però è anche una cittadina romagnola che ha una sua vita normale. Predappio in luce è infatti il documentario presentato al Festival del Film di Roma. Preceduto dalle solite polemiche preventive, in realtà un film che racconta i decenni di vita della città e il rapporto dei suoi abitanti con una eredità così delicata e impegnativa. Marta Cagnola ne ha parlato con il regista, cineasta e architetto Marco Bertozzi. Io sono di Rimini, e quando dico che sono di Rimini la gente pensa un luogo sterminato di bagnini, alberghi e discoteche, no? Poi quando porto gli amici a Rimini e vedono che c'è un centro storico, c'è una città, ci sono dei monumenti romani, ci sono dei monumenti del Rinascimento, restano sempre stupiti. E lì succede che un piccolo paesino, da sempre governato da una giunta di sinistra, si trova a gestire una memoria più grande della sua capacità di controllarla. Anche tre volte all'anno, nascite e morte di Mussolini e marcia su Roma, ha migliaia di arrivi e di presenze, a cori, a rituali. Il posto dove io giocavo a pallone, dove con i miei amici, cioè, e vederlo così mi fa male, perché se abbiamo paura di quattro muri, se non riusciamo a capire che c'era un'arte, che c'era un'urbanistica, che c'era un'architettura di valore di peso anche in quel periodo, e non riusciamo a togliere il velo ideologico sopra un muro, beh, allora di strada da compiere ne abbiamo ancora tanta. È un paradosso come anche, ad esempio, nella storia dell'arte internazionale, il ruolo che ha l'Italia nel Novecento sia forse sottostimato. Il fatto di riflettere sul nostro Novecento in termini problematici, però aperti, mi sembra che sia molto importante. È quello che ho cercato di fare io nel film. 13 e 18 minuti, GR24, edizione extra large. Sette cortei a Roma, manifestazioni in tutta la città, una vigilia di tensione per il voto al Senato sulla riforma della scuola, uno studente fermato e poi rilasciato davanti a Palazzo Madama. Borsa in altalena con i bancari, ma fa ben sperare il rally asiatico. Scende ancora l'Euribor, intanto si prepara la discussione sulla finanziaria. Degli 800 emendamenti preparati, ne sono stati ammessi 350. Maggioranza e opposizione premono per sostegno ai salari. Ergastolo, la richiesta del pubblico ministero per il rumeno che aggredì e uccise Giovanna Reggiani a Tor di Quinto. E oggi in Camera di Consiglio il giudice che dovrà decidere sull'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Militari italiani contro i pirati, accade sulle coste della Somalia, dove spetta a noi la guida della missione che scorta i carichi della FAO. Sono o non sono il capitano Uncino. E allora quando mi chiamo? Perché ti arriva tardi lo sbrano. I pirati come il Capitano Uncino cantato da Bennato ci sono ancora, ma non è uno scherzo, ci sono per esempio nelle acque del Corno d'Africa e se la prendono con le navi, pensate, degli aiuti alimentari delle Nazioni Unite. E allora la NATO è corsa ai ripari con una missione navale a comando italiano, incaricata dai ministri della difesa dell'Alleanza di dare il via a un'operazione contro la pirateria che imperversa lungo le coste africane e di scortare le navi del Programma Alimentare Mondiale. Sono 7 i vascelli militari impegnati in queste ore nelle operazioni e sono giunti ormai nelle acque somale. Cristina Balotelli ha sentito via Ponte Radio l'ammiraglio Maurizio Gemignani, comandante del Comando Navale NATO a Napoli. Dunque, l'operazione è un'operazione nata per fornire la scorta a quei mercantili del World Food Program che sono utilizzati per il trasporto di materiali, in particolar modo derrate alimentari, verso la Somalia. In buona sostanza c'è questo programma delle Nazioni Unite che in qualche modo cerca di alimentare i bisogni della popolazione somala attraverso questa attività. Però questa zona di mare è infestata dai pirati. Come pensate di far fronte a questa situazione? Sicuramente le Nazioni Unite, quando hanno chiesto alla NATO la possibilità appunto di fornire la scorta a questi mercantili, evidentemente pensava proprio al rischio connesso con la pirateria che si sviluppa lungo le coste della Somalia. Diciamo che fornire la scorta con un'unità militare a un mercantile in transito, in prima approssimazione almeno, dovrebbe scoraggiare qualsiasi brutta, cattiva intenzione da parte dei suddetti pirati. Quindi questa operazione ha soprattutto una funzione di deterrenza, anche perché nell'anno in corso leggo che almeno 60 navi sono state sequestrate dai pirati nelle acque somale, cioè il doppio rispetto al 2007, c'è stato un incremento. Sì, sicuramente c'è stato un incremento abbastanza significativo. La funzione dell'unità di scorta è una funzione che non è soltanto di deterrenza, è anche di protezione vera e propria. L'unità navale di scorta ha nelle sue possibilità la condotta di un certo numero di azioni per scoraggiare evidentemente la possibile azione dei pirati. La presenza in generale di unità militari per contrastare il fenomeno della pirateria in quelle acque è una funzione deterrente che si ritiene possa in qualche modo aiutare a quantomeno contenere il fenomeno, se non evidentemente annullarlo. E le armi di cui sono dotate? Ah beh, le armi di tutti i generi, verosimilmente però non assolutamente pensate per contrastare la pirateria, insomma, sono navi da guerra che sono armate per fare la guerra, non certo per andare a caccia. Quindi missili, queste cose? Sì, missili, cannoni e quant'altro, ma insomma mi sembra una panoplia di armamenti difficilmente impiegabili contro dei semplici pirati, insomma. Quindi adesso vi dirigete verso? Dunque, adesso siamo un po' distribuiti lungo le coste della Somalia. Abbiamo un'unità nel Golfo di Aden, ne abbiamo una che sta dirigendo verso Mombasa e ne abbiamo un'altra che invece sta navigando verso nord-nord-est alla volta di uno scalo somalo. Non avete paura di possibili attacchi terroristici, visto che si sono verificati e visto che si sa che in Somalia ci sono basi di Al-Qaeda, per esempio, e l'attacco allo USS Cole fu, mi pare, proprio nel Golfo di Aden? Sì, fu nel porto di Aden addirittura. Comunque non parliamo di paura, ma evidentemente la possibilità di dover fronteggiare questo rischio è sempre presente. Direi che dopo 7 anni passati a condurre l'operazione Active Endeavor siamo, direi, ben preparati per fare fronte a questo tipo di rischio, quindi le unità sanno esattamente direi come agire per tenere a bada questa problematica. Naturalmente quello che lei dice è giusto, nel Golfo di Aden c'è un po' di tutto, considerato soprattutto l'elevatissimo volume di traffico mercantile che si sviluppa in quella zona. Ritengo che le unità dell'alleanza siano assolutamente preparate. Sono, non sono il capitanoncino, eh? E allora avanti col coro. Cantate tutti. E lasciamo i pirati e chi li insegue l'intervista di Cristina Balotelli all'ammiraglio Maurizio Gemignani, comandante del comando navale NATO a Napoli. E ora parliamo di una vasta operazione antidroga del ROS dei Carabinieri. In manette sono finiti ex estremisti di destra e di sinistra uniti nel sodalizio criminale. Ci sono ex esponenti di Ordine Nuovo e dei NAR, uomini della Mala del Brenta di Felice Maniero, della banda della Comasina di René Vallanzasca e anche un ex BR nell'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri del ROS in una vasta operazione antidroga tra Veneto, Lombardia e Liguria. Secondo gli inquirenti, gli arrestati, una ventina, movimentavano un giro di cocaina di 15 kg la settimana, droga tutta destinata alle regioni del nord. Al vertice della banda, ex estremisti di destra, tra cui Angelo Manfrin, 64 anni, condannato nel 1990 insieme a Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e altri complici della banda, responsabile tra l'altro dell'omicidio dei carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese. Manfrin gestiva il traffico direttamente con la famiglia calabrese dei Morabito, che assicuravano la cocaina dal Sud America. Tra gli indagati, parte dell'inedito sodalizio, figura anche un ex BR che conservava nostalgicamente vecchi volantini con la stella a 5 punte. La struttura della banda ricalcava quella a comparti stagni tipica dei gruppi terroristici. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Scatta oggi la stagione del basket americano, non per rubare il mestiere ai colleghi, ma noi quello che vogliamo raccontarvi è nell'NBA la presenza di italiani pronti a essere protagonisti. La caccia ai Boston Celtics è aperta. Era appena il giugno scorso quando i Celtics hanno interrotto 22 anni di digiuno e sono tornati a trionfare nel campionato NBA, superando in finale i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. E oggi si riparte, uno spettacolo che negli States si ripete ormai dal 1947. Lakers, San Antonio Spurs, Houston e Detroit, i rivali più accreditati di Boston. Ma nel regno dei canestri a stelle e strisce c'è spazio anche per lo spaghetti basket. Per la prima volta presentiamo tre italiani al via. Il più atteso è Danilo Gallinari, che a 20 anni ha spiccato il volo da Milano, destinazione i New York Knicks dell'ex idolo meneghino Mike D'Antoni. Il gallo finora è stato bloccato da un infortunio alla schiena, ma l'inserimento nella squadra procede bene. Sono molto legato a Jamal Crawford, Malik Rose e David Lee. Secondo me è un gruppo super, in spogliatoio c'è molta tranquillità e tutti contenti di lavorare per il coach. In cerca di rivincite Marco Bellinelli, dopo un'annata a Golden State passata più tra panca e tribuna che in campo. Ma l'ex fortitudino è pronto a diventare protagonista in maglia Warriors. Io sto bene, mi sento importante, mi sento più maturo e diciamo conosco già il modo di giocare dei Warriors, conosco tutti gli allenatori, conosco comunque il metodo di gioco di questa squadra. Stagione decisiva anche per Andrea Bargnani. Al terzo anno a Toronto il romano si gioca tutto. O diventa un big o sarà solo una comparsa nel grande circo della palla a spicchi d'oltreoceano. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:33 minuti, le notizie di oggi extra large. Sulle regole serve un ampio consenso. Napolitano fa appello ad un accordo bipartisan per la legge elettorale per le europee. 7 cortei a Roma, manifestazioni in tutte le città, una vigilia di tensione per il voto al Senato sulla riforma della scuola, uno studente fermato e poi rilasciato davanti a Palazzo Madama. E intanto si prepara la discussione sulla finanziaria, che prevede anche i tagli all'università. Degli 800 emendamenti preparati ne sono stati ammessi 350. Maggioranza e opposizione premono per sostegni a salari da subito. Borse positive dopo il rally asiatico e scende ancora l'Euribor, è al 4,86%. Ergastolo, la richiesta del pubblico ministero per il rumeno, che aggredì e uccise Giovanna Reggiani a Tor di Quinto, è già in Camera di Consiglio il giudice che dovrà decidere sull'omicidio di Meredith a Perugia. Arrestati due neonazisti che volevano uccidere Barack Obama, ma il candidato democratico alla Casa Bianca dice: io non ho paura. Dunque, come avete sentito dagli aggiornamenti di radio, le borse europee hanno preso la via positiva dopo lo spunto, il rally delle borse asiatiche. E vi ricordiamo anche l'altra notizia di giornata: i tassi interbancari che continuano a scendere. L'Euribor a scadenza a tre mesi è sceso di 5 punti base dal 4,91 al 4,86%, toccando i minimi dal 29 maggio scorso. E adesso andiamo al Senato, dove ci sono le audizioni di ABI e Borsa Italiana. Andrea Viali. Sì, al Senato va avanti l'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sulla nostra economia, sull'economia italiana. In questo momento la Commissione Finanze di Palazzo Madama sta ascoltando da qualche minuto il presidente della Borsa Italiana, Angelo Tantazzi, che ha iniziato il suo intervento ricordando che dall'inizio della crisi, in particolare dal momento del crack della banca americana Lehman Brothers, l'indice principale della Borsa Italiana, l'S&P MIB, ha perso circa il 23%. Tantazzi sta parlando in questo istante, sentiamo un passaggio del suo intervento. I provvedimenti di divieto di short selling presi dalla Consob si applicano alle operazioni di vendita delle sole azioni quotate su mercati regolamentati italiani e ivi negoziate. Le competenze territoriali della Consob, ecco, passaggio sui mercati, tecnico dell'intervento di Tantazzi di Borsa Italiana. Conclusa l'audizione di Borsa Italiana, la Commissione Finanze andrà avanti con la sua indagine, ascolterà il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Faissola. Per il momento da Palazzo Madama è tutto. Grazie Andrea Viali. Tema ovviamente all'ordine del giorno non solo in Italia ma anche in Europa, e poco fa il commissario europeo alla concorrenza Nelly Kroes ha invitato i paesi europei ad evitare aiuti generalizzati e a ricorrere nel quadro delle attuali regole comunitarie ad aiuti di Stato mirati che favoriscano, ha detto, gli investimenti delle imprese soprattutto nel settore dell'innovazione e della ricerca. Questo, ha aggiunto, per limitare al massimo l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale. L'economia europea, ha detto il commissario, in questa fase ha più che mai bisogno dell'intervento statale, ma di aiuti di Stato del tipo giusto. E ancora indicazioni e barometri per l'economia, questa volta indicazioni negative. Forte calo infatti ad ottobre per la fiducia delle imprese e del commercio, anche nei servizi e nelle costruzioni. Lo dice l'ISAE, spiegando che per il settore commercio l'indice è sceso dal 111 punti a 105,7. L'ISAE sottolinea anche che emergono segnali di grande preoccupazione per quanto riguarda le aspettative sull'andamento delle vendite, e poi tornano ad aumentare le giacenze nei magazzini. America verso il voto. Mancano 7 giorni. Apriamo la nostra pagina. Ieri ha fatto irruzione sulla scena la notizia di un presunto complotto per assassinare Barack Obama, ma il candidato democratico ha detto di non essere preoccupato. In un'intervista alla BBC ha provato a stemperare i toni, minimizzando l'accaduto. Si tratta di gruppi completamente marginali, non rappresentano la realtà dell'America, ha detto il senatore dell'Illinois. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Che come buongiorno. Sempre ogni giorno ci accompagna sui giornali stranieri. Oggi quali sono i titoli, le notizie, insomma anche i retroscena, le indiscrezioni su questo complotto che riguardava Barack Obama? Stampa internazionale, ma credo anche americana in particolare, Giulia. Sì, naturalmente sui giornali americani, New York Times in prima battuta, ma anche Washington Post, danno lo spazio giusto, nel senso che la notizia è naturalmente di quelle che fanno molto rumore, però come dicevate voi, questo attentato era in forma ancora molto embrionale, quasi... usiamo questa parola, anche se un attentato è sempre una cosa tremenda solo da concepire, però dilettantistico questo approccio che avevano questi due supposti neonazisti. Tutti i giornali lo sottolineano, però allo stesso tempo questa era una cosa che era un po' come se, questo lo scrive in un commento il New York Times, questo possibile svolta violenta della campagna elettorale, che già aveva avuto toni molto accesi nei confronti di Obama, qualcuno la temeva, perché soprattutto tra i repubblicani ci sono queste frange più radicali. E anche in Italia è stato pubblicato un articolo di Timothy Garton Ash, che è un osservatore inglese, che parlava proprio di questo domenica, quasi profetico, aveva fatto il giro di molti giornali, cioè diceva quello che che nessuno vuole, di cui nessuno vuole parlare perché farebbe veramente paura, è la possibilità di un attentato. E c'era questa famosa frase: forse in futuro ci chiederemo non dove eri tu quando è stato ucciso John F. Kennedy, che è la domanda che possono farsi gli americani, che spesso gli americani si fanno, ma dove eri tu quando hanno ucciso Obama. Ecco, naturalmente poi il Guardian per esempio fa un giro di tutti i bloggers per capire qual è l'umore della rete. Secondo il Guardian tutti considerano questi due ragazzi veramente due poverini che sicuramente non avrebbero potuto portare a termine il loro piano, però è comunque un segnale inquietante, questo traspare da tutti i commenti. Da tutti i commenti, e come abbiamo sentito però lo stesso Barack Obama ha tentato di minimizzare già in sì, anche ore. Perché c'è uno sforzo anche da parte dei giornali di tenere poi invece vivi, fino, visto che sono proprio gli ultimi giorni cruciali, i temi quelli veramente importanti, cioè le ultime dichiarazioni sull'economia, le ultime dichiarazioni sulla guerra in Iraq, la riforma sanitaria e la crisi dei mutui. Insomma, quindi i temi veri. Esatto. E noi, grazie a Giulia Crivelli, a domani come sempre. E noi proprio da questi temi, con questi temi continuiamo, perché anche noi stiamo cercando di raccontarveli i temi che dividono McCain e Obama nelle ultime ore di campagna presidenziale. In tempi di crisi non c'è niente di meglio, soprattutto se di mezzo c'è una campagna elettorale, che parlare di tasse, rassicurando ovviamente gli elettori, meglio se della classe media, sul fatto che lo Stato non preleverà altri soldi dalle loro tasche. John McCain intende rendere permanenti quasi tutti i tagli fiscali già avviati da George Bush, dopo essersi opposto nel 2001 e nel 2003. Il candidato repubblicano vuole pure aumentare gradualmente l'esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti, portandola a $7,000 nel 2016. McCain, che non disdegna neppure l'idea di semplificare il sistema fiscale, portandolo a sole due aliquote, vuole ridurre la tassa sul capital gain al 7,5%, ma solo per due anni, e intende ridurre anche la tassa sulle imprese, portandola dal 35 al 25% entro il 2015. Barack Obama intende invece innanzitutto annullare la riduzione delle imposte accordata da George Bush a chi guadagna oltre $250,000 l'anno e chiede di estendere i tagli alla classe media, eliminando del tutto i prelievi fiscali sui pensionati che guadagnano meno di $50,000 l'anno. Obama intende, a differenza di McCain, portare la tassa sul capital gain dal 15 al 20% per chi guadagna oltre $250,000 e mira a un giro di vite sulle falle legislative che permettono alle aziende di evadere il fisco. Sergio Nava, Gera 24, Il Sole 24. Resterà in Italia la causa avviata da Margherita Agnelli per decidere sull'eredità del padre, il senatore Gianni Agnelli. Le sezioni unite della Cassazione infatti hanno poco fa respinto il ricorso di Marella Caracciolo, la moglie dell'avvocato, del legale di famiglia l'avvocato Franzo Grande Stevens e del commercialista Siegfried Maron, che avevano sollevato un'eccezione di giurisdizione. Secondo loro la controversia doveva essere risolta da un tribunale svizzero, invece rimarrà in Italia. E siamo al nostro appuntamento con i libri della settimana. Ormai è scoppiata la moda dei thriller che arrivano dal nord Europa. La madre di tutti i giallisti scandinavi è Mai Sjöwall, che in coppia con il marito Per Valù ha scritto tra il 65 e il 75 10 gialli. In Italia li sta pubblicando ora Sellerio, e Alessandra Tedesco ha incontrato Mai Sjöwall. We wanted to do another kind of crime novel. Volevamo fare un nuovo tipo di giallo che all'epoca non esisteva in Svezia. Scrivendo il lavoro della polizia, volevamo parlare della situazione sociale che vivevamo all'epoca. Nei 10 romanzi c'è anche una forte critica alla società svedese, soprattutto verso quali aspetti? Our intention was to create something that combined. La nostra intenzione era creare qualcosa che mettesse insieme la nostra visione politica e l'intrattenimento. Attraverso i romanzi volevamo far capire come la società svedese stesse diventando sempre più fredda, sempre più inumana e sempre più capitalista. Eppure noi qui in Italia abbiamo l'idea che la Svezia sia un paese quasi perfetto, grande assistenza sociale, donne che lavorano però si possono dedicare alla famiglia. Allora non è così. No, non è così. L'intenzione della socialdemocrazia era quella di creare una società realmente socialdemocratica. Negli anni 50 il modello socialdemocratico sembrava funzionare, negli anni 60 c'è stata una caduta. Olof Palme, il premier che fu ucciso, era un uomo di ottime pubbliche relazioni ed era riuscito a dipingere un bellissimo ritratto del paese, di una società ideale che combinasse capitalismo e socialismo. Ma non funzionò mai, neppure in Svezia. works and it didn't in Sweden either. I 10 romanzi sono stati scritti fra il 65 e il 75 e noi in Italia in fondo li stiamo scoprendo solo ora. È stupita del fatto che sia passato così tanto tempo. In a way I'm surprised because the books must be. In un certo senso sono sorpresa, perché possono essere quasi considerati libri storici, sono stati scritti fra il 65 e il 75. D'altro canto, oggi molti scrittori di gialli hanno preso i nostri romanzi a modello. Abbiamo segnato una strada. Questo crea curiosità nella gente che vuole sapere da dove è nato tutto. 13:46 minuti, 30 secondi, le notizie di oggi. Borse positive in Europa dopo il rally asiatico. Scende ancora l'Euribor. Intanto si prepara la discussione sulla finanziaria. Maggioranza e opposizione premono per sostegni ai salari. Al Senato siamo in 10.000, dicono gli studenti. Manifestazioni in tutte le città. Una vigilia di tensione per il voto sulla riforma della scuola. Arrestati due neonazisti che volevano uccidere Barack Obama, ma il candidato democratico alla Casa Bianca dice sono gruppi marginali, non ho paura. Ergastolo la richiesta del pubblico ministero per il rumeno che aggredì e uccise Giovanna Reggiani a Tor di Quinto. È già in Camera di Consiglio il giudice che dovrà decidere sull'omicidio di Meredith a Perugia. E partiamo proprio da qua, perché oggi è per l'appunto il giorno del primo verdetto per l'omicidio di Meredith Kercher. Il giudice per le indagini preliminari di Perugia, Paolo Micheli, è in Camera di Consiglio. Dovrebbe uscirne in serata con un primo verdetto. Là colleghiamoci con Perugia. Daniele Morini, che cosa deve essere deciso? Sì, sono attesi per il pomeriggio, più probabilmente in serata, a quanto pare dalle ultimissime voci, come dicevate anche voi, i primi verdetti sull'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa quasi un anno fa a Perugia nella sua abitazione di Via della Pergola, non lontano dall'università per stranieri. Poco dopo le 9 stamattina è iniziata l'ultima seduta davanti al giudice per l'udienza preliminare, Micheli, poi dopo un'ora circa lo stesso GUP si è chiuso in camera di consiglio, sarà lui che in giornata dovrà prendere una duplice decisione, la prima sulla sorte dell'ivoriano Rudy Guédé, che avendo scelto il rito abbreviato sarà subito giudicato in base alle prove e alle ricostruzioni fin qui acquisite. Anche stamattina i legali del giovane di colore hanno chiesto il proscioglimento con formula ampia o le attenuanti generiche. La seconda decisione riguarda invece il rinvio a giudizio degli altri due imputati, lo studente barese Raffaele Sollecito e la studentessa americana Amanda Knox. Chiudiamo dicendo che di fronte al tribunale di Perugia c'è, come prevedibile, una grande folla di giornalisti, fotografi e operatori TV. Da Perugia è tutto. Grazie a Daniele Morini, ovviamente torneremo a collegarci con te nel corso della giornata. Parliamo ora invece di OGM, perché cresce il numero degli italiani favorevoli agli alimenti geneticamente modificati, ma chiedono migliore informazione. Sentiamo. Più consapevoli del cibo che troviamo sulle nostre tavole. È quanto emerge dal rapporto tra alimentazione e salute presentata dalla Fondazione Diritti Genetici. Su 1.500 intervistati cresce la percentuale di italiani che sanno cosa siano gli OGM, il 66% contro il 40% del 2000. Tra di loro rimane alta la percentuale dei contrari, il 78%, e a fianco di chi si oppone la coalizione Italia-Europa liberi da OGM. Il portavoce Roberto Burghese. Ad oggi, dopo 20 anni di storia, gli OGM non hanno ancora risolto nessun problema, quindi non hanno nessuna possibilità nel breve periodo di diventare un'opzione alimentare conveniente. Tra i più informati, il 18% afferma di non essere contrario all'uso degli organismi geneticamente modificati in agricoltura, ma chiede maggiori garanzie. Marina Miraglia, direttrice del reparto OGM dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli OGM che sono stati giudicati sicuri per. È il momento della nostra rassegna stampa araba a cura di Adib Fateh Ali. Il raid USA in territorio siriano di 2 giorni fa ancora in primo piano sulla stampa araba di oggi. Ampio spazio anche all'incontro avvenuto dopo 30 mesi tra i leader della maggioranza e dell'opposizione libanese. Hariri e Nasrallah, titola Sharq al-Awsat, scelgono lo Stato come perno della prossima fase politica. Italia e Francia spingono con forza per includere l'Egitto e altre economie emergenti nel G8. Lo scrive l'Aram, che riferisce dell'invito giunto al Cairo dal governo italiano che ospiterà il prossimo vertice. evitate pantaloni aderenti e t-shirt a mezza manica, turbano le donne. È quanto ha suggerito ai fedeli egiziani un eminente religioso dell'università islamica Al-Azhar in un sermone che aveva per tema le molestie sessuali, come riporta Al-Qudsi Arabi. Ho perso ogni pazienza e non ne potevo più di vederlo sempre a casa. Così si è spiegata al quotidiano Al-Hayat, una donna saudita che per respirare un po' di libertà e con un po' di fatica è finalmente riuscita a trovare una seconda moglie per suo marito. Stiamo molto parlando della scuola italiana in questi giorni, delle proteste. Siamo in 10.000 al Senato, dicono oggi gli studenti delle scuole superiori. Ebbene, in Gran Bretagna anche qui si parla molto di scuola, ma per tutt'altro, perché gli effetti della crisi finanziaria ed economica si fanno sentire sull'istruzione e a favore proprio della scuola pubblica. Crisi del credito, collasso dei mercati finanziari internazionali e a farne le spese sono gli scolari britannici, o meglio i loro genitori, che non riescono più a sostenere i costi per mandarli nelle rinomate scuole private. Se già il rincaro del 40% in 6 anni delle rette, in media l'equivalente di 30.000 euro l'anno, aveva fiaccato i genitori britannici, adesso il cosiddetto credit crunch ha dato la botta finale all'istruzione privata, con sempre più alunni costretti a rivolgersi agli istituti pubblici come le grammar school, che sono gratuite, spiega Robert McCartney, presidente della National Grammar School Association. Se lo scorso anno nelle grammar school del Kent, ad esempio, ci sono state 9.500 domande, quest'anno il numero è salito a 11.500, conferma McCartney. Alle independent school non resta che ricorrere agli estremi rimedi, come massimizzare l'efficienza energetica delle strutture, diminuire lo spreco di cibo e abbassare i riscaldamenti nelle classi. I costi scolastici sono un impegno di lungo periodo per i genitori, dice David Liscon, direttore dell'Independent School Council, che invoca: magari potrebbero aiutarli anche i nonni. Parte la prossima settimana, il 4 novembre, il tour di Van der Vroos, che per la seconda volta ha ottenuto la targa Tenco per il miglior album in dialetto con Pika. Esaurito ad aprile per il concerto milanese, ben 12.000 i biglietti staccati. Dopo il quarto posto della classifica Fimi Nielsen, conquistato nella prima settimana di uscita con l'album Pika, e dopo la seconda targa Tenco per il miglior album in dialetto, sempre con Pika, una l'aveva già ricevuta nel gennaio del 2003, questa invece gli sarà consegnata l'8 novembre prossimo al premio Tenco, si può proprio dire che il 2008 è stato un anno molto fortunato. Per Davide Bernasconi, in arte Davide Van der Vroos, nato a Monza ma cresciuto a Mezzegra, nel cuore del lago di Como, dove ha iniziato il suo percorso musicale a metà degli anni Ottanta, il bilancio è dunque molto positivo. Un anno molto molto bello, che non dimenticherò facilmente, perché comunque dovunque ci siamo spostati, in Italia, anche in luoghi praticamente non così ovvi, abbiamo trovato comunque gente che aveva in mano il disco Pika e che aveva compreso perfettamente le canzoni, seppur in un altro dialetto. Ecco, questo tipo di sforzo è qui vale ad affetto, secondo me, perché comunque sia della gente che parla un altro dialetto, si avvicina talmente tanto a una tua canzone da saperla a memoria, questa è una forma grossa di rispetto, di affetto, comunque sia. Si parla proprio di una traccia, un filo che si è creato tra quello che ti passa per la testa e l'ascoltatore. E quindi mi reputo assolutamente soddisfatto. 12 mesi da chiudere in bellezza, a partire dal doppio concerto al Teatro Smeraldo di Milano il 4 e 5 novembre prossimi, esibizione che darà ufficialmente il via ad un tour di oltre 40 date nei principali teatri italiani. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Assedio al Senato, 7 cortee a Roma tra studenti superiori e universitari, tensioni con la polizia, siamo in 10.000, dicono. Borse positive dopo il rally asiatico, scende ancora l'Euribor. Già pronti 800 emendamenti alla finanziaria, opposizione e maggioranza premono per sostegni ai salari. Ergastolo, la richiesta del pubblico ministero per il rumeno che aggredì e uccise Giovanna Reggiani a Tor di Quinto, attesa per la prima sentenza per l'omicidio di Meredith a Perugia. Sulle regole serve un ampio consenso, Napolitano fa appello ad un accordo bipartisan per la legge elettorale per le europee. Anche il mercato dell'arte è in crisi, Sotheby's ritira un Arlecchino di Picasso, vale 30 milioni di euro, ma non ci sono compratori. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. E come sempre ci risentiamo domani a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.